nuovo non ti sento e tutto se ne va. Non c'è rimessa in gioco, il fisco prima o poi arriverà. Il loro schema è perfetto, tu ti stacchi e non parli, ma il gioco è sporco per chi resta e chi se ne va. Ha comprato il destino, hai raggiunto la meta, ma il gioco è sporco per chi vince e chi perderà. Non ti trovo, eppure eri là. Ti è andato fuori gioco, lo stadio prima o poi si svuoterà. Ti hanno chiuso la porta, hai cambiato il tuo passo, ma il gioco è sporco per chi resta e chi se ne va. Si sono stretti la mano, hai coperto anche gli altri, ma il gioco è sporco per chi vince e chi perderà.